Buongiorno a tutti. Il telefonino del cammino si è surriscaldato un pochino perché sono arrivati moltissimi messaggi delle vostre dediche, quindi volevo ringraziarvi perché avete partecipato in tantissimi. Ovviamente non potrò leggerli tutti oggi, però cercherò di leggerli nel corso delle varie puntate, insomma, comunque sia verranno letti, e cercherò di suonare tutti i brani che mi avete richiesto. Grazie ancora a tutti voi per questo meraviglioso supporto. Dedico Mercatino a mio padre, perché ogni domenica si sbatte a fare mercatini. Tiziana. M2O. Intanto vi ripeto ancora il numero di telefono per poter mandare il vostro SMS con la vostra dedica. 333-6467-662. Dedico Welcome to Paradise a te, che mi spiazzi come le nostre emozioni e i nostri devasti, impossibili da controllare. Davide. Io non li sopporto quelli che cominciano le frasi. Post bounce che ma che le pro, hardcore Ricky Pippo. Post bounce che ma che le pro, hardcore Ricky Pippo. Post bounce che ma che le pro, hardcore Ricky Pippo. Post bounce che ma che le pro, hardcore Ricky Pippo. Post bounce che ma che le pro, hardcore Ricky Pippo. Post bounce che ma che le pro, hardcore Ricky Pippo. Dai un po' sulle mani. Sono Tizi di Isola Capo Rizzuto e vorrei dedicare Again al mio amore Massimiliano. Voglio dedicare Again a tutti coloro che alla fine del cammino dicono ancora. Loris 89. Dedico la canzone Again alla mia migliore amica Elisa, chiedendole di tornare da me, Antu. Yeah.

canzone ad un trio un po' pazzo, ai due spaghetti Dendo e Fede e alla Zora Antonellina. Dedico Non giochiamo e gli dico sulle mano, Giusy, ciao. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Com'è? Ginnastica mentale. Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Il titolo di questo brano è Non giochiamo. Non giochiamo. Non giochiamo. Non giochiamo. Zagabi. Artista Dottor Doug ti fa una visita e non lo paga. Dedicare Contaminando alla G, così poi per qualche mese sta buona buona, Moritz. Grazie Gigi per questa possibilità che ci dai, ma grazie a voi che me lo permettete. Dedico Contaminando alla G, così evito di angosciare mezzo forum e il sottoscritto e si può ritornare a vivere in pace. Scherzo ovviamente. TVTB, ciao Risp, il Tarantino. Ciao Gigi, sono Robby B del forum, vorrei dedicare Contaminando la G, così se fa un pianto liberatorio e diventa meno acido, ciao. Vorrei dedicare Contaminando la mia cara amica la G, con questa canzone esprimo quanto ti voglio bene. Cara Jenny, spero di vederti più presto, Marco Noyes. Accendo la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accendo la radio su M2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Accendo la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accendo la radio su M2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Vorrei dedicare Angel al mio unico angelo, capace di trasmettermi forti emozioni con il solo uso della musica. Tutti insieme in un unico cammino, Giulia Dance. Non riesco a dire in un unico, mi incespico. Tutti insieme in un unico cammino, ecco.

Ciao Gigi, vorrei dedicare Gigi's Love a Ilaria. Ciao da Marcello. Dei Sud Sound System a Spillo. Ciao, come si chiama la canzone Simu Salentini? E la versione che suono io nel cammino è un bootleg fatto da due giovani produttori, quindi non è proprio la versione originale, ma la la canzone dei Sud Sound System. E il titolo non te lo dico, così ti vai a cercare ed ascoltare un po' di canzoni, un po' di brani di questo magico gruppo. E la versione che suono io di questo brano è un bootleg, è una magia fatta da due giovani produttori a Magna Romagna per il cammino, ed è meravigliosa. molto anziano di oggi è... Ho già detto, ma la sigla ma sfumare perché devo respirare.